Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La nostra vita quotidiana dipende da sempre più infrastrutture. Infrastrutture per il trasporto di cose e persone, per l'energia, per la circolazione dei dati. Le città stanno addirittura subendo una sorta di invasione di oggetti intelligenti. È l'Internet of Things che avanza e dal quale saremo ancora una volta sempre più dipendenti. Ma mentre sulle grandi infrastrutture critiche nazionali e continentali c'è una forte vigilanza, i gasdotti per esempio sono attentamente monitorati, a livello regionale non c'è altrettanta attenzione. Iniziare a colmare questo vuoto è stato l'obiettivo del progetto europeo Miracle, guidato dal Politecnico di Milano, che si sta concludendo in questi giorni e di cui parliamo con il coordinatore scientifico, il professor Paolo Trucco, docente di gestione del rischio industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale. Buonasera Trucco. Buonasera. Allora, dunque, la cronaca degli ultimi mesi ci offre diversi esempi di infrastrutture di livello regionale che, una volta andate in crisi per qualche motivo, insomma, hanno poi avuto un impatto molto forte. Forse possiamo partire da qualche esempio. Certamente, per essere, diciamo, legati alla cronaca anche più recente al nostro paese, potremmo forse considerare il caso dell'incendio a Fiumicino, dove le conseguenze per i cittadini e anche per le imprese, per il settore economico, è stato sicuramente locale sulla città di Roma, ma poi nazionale e in qualche modo anche europeo, per esigenze di riadattamento delle rotte e dello scheduling degli aerei. Pensiamo alla Sicilia divisa in due da un cavalcavia crollato, no? Forse quella era proprio la tipica infrastruttura regionale sulla quale non c'è stata in realtà la minima attenzione. Esatto. Se non addirittura eventi eclatanti a cui nessuno aveva mai pensato. Se prendiamo lo tsunami giapponese nel 2013, l'area impattata è un'area di qualche chilometro, una quarantina, cinquantina però, di chilometri, certo. Ma gli effetti si sono sentiti dall'altra parte del globo. In più, tra l'altro, ci si mette anche il cambiamento climatico, l'aumento di frequenza dei fenomeni atmosferici estremi, che ormai comincia a trovare dei fondamenti anche scientifici solidi, a complicare la situazione per quanto concerne il futuro. Ed ecco, veniamo agli obiettivi, quindi agli attori anche di questo progetto Miracle che lei ha coordinato. Sì, giustamente lei nell'introduzione faceva accenno al fatto che a livello europeo, a livello nazionale, già da qualche anno si trattano questi temi di protezione e resilienza delle infrastrutture critiche, dal 2008 a livello europeo, mentre un fenomeno emergente è quello di iniziative, programmi, molto spesso di collaborazione pubblico-privato, che stanno nascendo invece su scala regionale o metropolitana. Lo scopo del progetto è stato proprio quello, quindi, di andare a conoscere le caratteristiche e le potenzialità di queste azioni come contributo a una maggior resilienza delle infrastrutture critiche. Ecco, come si è svolto il progetto? Voi intanto siete partiti, e questo è stato proprio il compito del Politecnico di Milano, da una mappatura di best practice, è così? Sì, insieme a un altro partner che è una piccola società di consulenza, ma con RGS, con fortissime competenze su questo tema, e con questo appunto abbiamo inizialmente raccolto su scala globale, a livello mondiale, esperienze e casi, abbiamo contattato operatori sia privati che istituzionali. Con questo poi abbiamo selezionato 7 casi di studio che abbiamo realizzato in maniera approfondita, anche con dei periodi di permanenza di qualche mese di alcuni nostri ricercatori. Su questo poi 3 partner istituzionali del progetto, il governo scozzese, la regione del Kennemerland olandese e regione Lombardia, hanno recuperato degli elementi di contenuto da queste best practice importanti per loro e hanno quindi realizzato dei progetti per adottare e integrare. E hanno un po' chiuso il cerchio, insomma, hanno fatto proprio alcune di queste best practice, perché qui parliamo soprattutto di un livello organizzativo. La verità è che di fronte ad alcune emergenze ci siamo proprio trovati impreparati, non come mezzi, ma anche solo non avevamo immaginato come poterle gestire. È preciso. È un po' qui il punto vostro, no? Le infrastrutture critiche hanno forti interdipendenze che molto spesso si scoprono solo in occasione di specifici eventi, e quindi bisogna essere molto rapidi nel comprenderle e nel saperle governare. Senta, mi piacerebbe raccontare qualche best practice, magari lo faremo in futuro perché il tempo è tiranno. Le chiedo invece, adesso che questo progetto Miracle si sta sostanzialmente concludendo, che cosa diventerà? dalla nascita di questa rete di attori pubblici e privati è stata fatta partire una rete, un'associazione che continuerà nel tempo a fare scambi di esperienze, a fare disseminazione anche verso la popolazione, a realizzare nuovi progetti. Come si chiama questo progetto? Chi può aderire? Cirintnet, possono aderire tanto delle istituzioni, ad esempio dei governi regionali, abbiamo appena avuto un'adesione di un governo scozzese, spagnolo, ma anche operatori di infrastrutture, sia di trasporti che di energia che di telecomunicazioni e enti di ricerca. Lo scopo quindi è di fare massa critica e generare conoscenza su queste esperienze. Grazie professor Paolo Trucco. Buonasera, grazie. È tutto, a lunedì.